a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Vision Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama. Questa, la settimana scorsa, venerdì scorso, è stato secondo me solo l'inizio, no? La causa della notizia, che però poi è stata straordinariamente superato dall'effetto, no? il riconoscimento, il Nobel alla pace a Barack Obama, una notizia importante, però poi il rumore mediatico che si è scatenato attorno a questo evento è stato decisamente, no? più intenso della sua valutazione, della sua origine, no? Ci sembra perciò giusto continuare a parlarne a 3-4 giorni di distanza, allorché praticamente qualsiasi cittadino del villaggio della comunicazione si è sentito in dovere di partecipare al dibattito, naturalmente a cominciare dal diretto interessato. I am both surprised and deeply humbled by the decision of the Nobel Committee. Let me be clear, I do not view it as a recognition of my own accomplishments, but rather as an affirmation. Fatemi essere chiaro, come piace dire a Barack Obama. Lui dice mi sento sorpreso, mi sento anche in un certo senso carico così di emozione, però il riconoscimento non è per me, ma è per la direzione che il popolo americano attraverso di me approva. Ma insomma, la domanda poi è diventata: è giusto o sbagliato, è stato prematuro o tempestivo questo Nobel per la pace a Barack Obama? Che effetti collaterali provocherà, no? Al di là della sorpresa, dell'imbarazzo, dell'orgoglio, dell'invidia, dei luoghi comuni sulla decadenza americana, decadenza o no, ne hanno presi 8 di questi Nobel che non varranno niente, ma sono 8 su 10. Poi una scrittrice che purtroppo pochi hanno letto, e un premio è andato invece in Israele. Abbiamo un sacco di voci da sentire, di citazioni da fare, ma soprattutto abbiamo due ospiti che in diretta invece cortesemente, amici del nostro programma, che cortesemente diranno la loro sull'argomento. Sono Guido Molteto, il capo delle relazioni esteri di Europa. Ciao Guido, buon pomeriggio. Ciao a voi. E Andrea Mancia, vice direttore Liberal. Andrea, buon pomeriggio anche a te. Ciao e buon pomeriggio a tutti. Che non so perché, non vorrei fare il grillo parlante, ma secondo me non la vedono esattamente allo stesso modo sull'argomento. Quindi diamo la priorità a loro, poi li alterneremo anche con voci assai autorevoli che arrivano dall'America, da una parte e dall'altra. Molteto, cominciamo con te. Vorrei sapere la reazione istintiva e poi soprattutto la reazione a questo rumore che, come abbiamo detto in apertura, sembra quasi più impressionante della notizia stessa. Sì, diciamo che il premio Nobel viene dopo lo scacco che ha avuto Obama sulla questione della designazione di Chicago per i giochi olimpici. Sembrava in quel momento che il prestigio americano fosse arrivato quasi negli abissi, perché si era impegnato lo stesso presidente, la moglie Michelle, certo per una partita che era difficile da vincere, ma allora appunto anche personaggi della destra americana avevano sottolineato questo come uno scacco di Obama. Gli stessi personaggi poi hanno tirato fuori la storia che questo premio era ingiustificato per il presidente, dal momento che è da poco tempo in carica, non ha ancora compiuto nulla di straordinario da fargli meritare il premio. Quindi c'è stata una situazione abbastanza curiosa nei confronti del presidente, appunto rispetto a questi due eventi, la questione delle Olimpiadi negate a Chicago, certo, e del premio Nobel ottenuto. Quindi qual è la verità in questo? Secondo me è che quello, un po' quello che disse Kissinger quando ottenne il premio nel 73, per dire sì, il Nobel per la pace non è tanto per l'ottenimento della pace, ma per la ricerca della pace. Quindi è vero che è un premio di incoraggiamento. Poi la domanda da farsi è questa: ma è meglio che gli sia stato dato o che non gli sia stato dato? Perché alla fine è molto curioso, sembra che gli abbiano dato un castigo invece che un premio. Certo, certo. Quindi è ovvio che questo non cambia nulla, è un fatto simbolico. Nei procedimenti, certo, certo, certo. Come tutti gli eventi simbolici vanno valutati per quello è un che fatto sono. Simbolico, però è anche un segno che sancisce, come dire, un'accademica benedizione a una direzione. Questo sì. D'accordo o no, non si può fare a meno di notarlo. Ma sentiamo Andrea Mancia, c'è il presidente del comitato, Andrea, per il Nobel per la pace, si chiama Torbjörn Jagland, che naturalmente l'hanno si è sentito chiamato in causa, e poche ore dopo la consegna della dichiarazione del riconoscimento a Obama ha fatto una domanda molto diretta che io ti giro a questo punto come se la facesse a te. Qualcuno può indicarmi chi ha fatto di più quest'anno? Che gli rispondi al signor Jagland? Ma a dire la verità l'elenco di potenziali premi Nobel per la pace fra dissidenti, persone incarcerate, persone che lottano per i diritti umani nei loro paesi, persone che si oppongono a regimi totalitari, persone che avrebbero magari avuto bisogno per far avanzare le loro cause veramente del $1.400.000 messo a disposizione al comitato, diciamo sarebbe troppo lungo per una trasmissione radiofonica, certo. Io credo. Secondo te anche però in un'epoca di media in cui bene o male fare, come dire, chiamare, no, l'attenzione forse conta più di quel 1.400.000, pur cifra ragguardevole. Nel richiamare l'attenzione su che cosa? Cioè io faccio sommessamente notare che il termine per la presentazione delle nomination è scaduto 2 settimane dopo che Barack Obama si era insediato alla Casa certo, Bianca, certo. Allora qui il problema non è sapere cosa ha fatto in quest'anno Barack Obama, niente, ma cosa ha fatto nelle prime 2 settimane del suo mandato, cioè se è possibile meno di niente. È ovviamente un modo che ha il comitato per andare sulle prime pagine dei giornali, probabilmente se l'avessero dato a un profugo uiguro della Cina, certo, non ci sarebbero andati sulle prime pagine, cioè la questione mediatica è rilevante, ma per il comitato, non per dare una direzione alla cosa. Io diciamo poi, che si sono presi il lusso di premiare una scrittrice rumeno-tedesca che pochi conoscevano, diciamo, gli hanno detto ma come, premiate una che non conosce nessuno. Ho capito. Come ci andiamo sulle prime pagine sui giornali e nella rotazione del ciclo delle notizie delle giornali? Sentiamo un attimo il parere espresso dal segretario di Stato americano, naturalmente confacente alla consegna del premio. Ecco Hillary Clinton. The fact that the Nobel Committee, and I can't read their minds, none of us can, but the fact that they recognized that his attitude toward America's role in the world, his willingness to challenge everyone to hanno premiato l'attitudine dell'America nei confronti del mondo, la sua volontà di cambiare le cose. Questo è, come dire, il palinsesto, il punto forte di coloro che si sono schierati in favore di questo premio a Barack Obama. Sentiamo uno che per esempio rappresenta invece in modo naturalmente sempre raffinato, come sa fare lui, quelli che lo scetticismo proprio non riescono a vincerlo, nella fattispecie un grandissimo giornalista inglese in America come Christopher Hitchens. Well, that really is a virtual prize then, isn't it? As I say, it's a prize for effects, not effect. Dice è un premio virtuale, una roba che riguarda l'affetto, non certo gli effetti. Queste sono, come dire, le due angolazioni, poi ce ne sono anche di più estreme, che stanno convergendo su questo premio a Obama, che forse in un certo senso ci inciampa un po' sopra. Guido Molteto, che pensi? È qualcosa di cui avrebbe fatto a meno o la vanità, no, umana di noi tutti a un certo punto davanti a un Nobel sbatte un po' gli occhi, ma poi dice ma in fondo sì, perché no? Beh no, è un premio, quindi credo che Obama sia così intelligente da averlo gradito. Certamente non l'ha cercato, non c'è stato nessun pressing né da parte sua né da parte del suo entourage per averlo, e io credo che fosse genuina la sua sorpresa quando ha saputo del premio. Io però penso che stiamo vivendo in un mondo molto complicato in questo momento, con l'Afghanistan, l'Iraq che non si è chiuso, il Medio Oriente che è un problema, i problemi sono numerosissimi sul tappeto. Che ci sia anche un fatto simbolico che in qualche modo incoraggi la maggiore, ha ragione Hillary Clinton quando sottolinea il fatto che questo premio poi è un premio agli Stati Uniti, e quindi questo è il fatto, quindi è sorprendente che negli Stati Uniti, dove in certi momenti l'unità nazionale è la cosa più importante, nei momenti dell'orgoglio nazionale e nei momenti del lutto, come fu l'11 settembre, ci dovrebbe essere un'unità dietro la bandiera, dietro il presidente che rappresenta il paese. In questo momento il premio Nobel era un riconoscimento alla nuova America di Barack Obama, più che al presidente in quanto tale. Ed è stupefacente, ed è un elemento anche di riflessione da parte di tutti noi, sul fatto che non c'è più quell'America che in certi momenti è unita dietro il suo presidente, chiunque egli sia. Certo, questo è il fatto veramente su cui riflettere. Beh, anche perché si continua ad affermare che questo è un premio a Barack Obama, ma soprattutto un premio in negativo, una specie di condanna, di gogna per George W. Bush. Se sentiamo Andrea Mancia su questa angolazione, appunto, di una divisione, no? Che attraverso questo premio in un certo senso si acuisce, quando poi ci sono appuntamenti elettorali dietro l'angolo, partiti che a questo punto, partiti politici che si sentono in dovere di occuparsi di Nobel, non so come dire, Andrea. Innanzitutto verissimo, cioè un premio cosiddetto anybody but Bush, perché dopo sì, averlo dato a Carter perché aveva criticato Bush, dopo averlo dato al Gore perché aveva criticato Bush, dopo averlo dato al Baradei perché aveva criticato Bush, è arrivato, diciamo, il premio all'uomo che ha detto di voler cambiare la politica estera di Bush. Però aspetta, scusa che ti interrompo, ma Hitchens, in quella intervista che ascoltavamo poco prima, dice una cosa in più che ti voglio aggiungere, sottoporre. Sì. Dice, ma in fondo ne hanno dati tanti di premi a veri e propri professionisti della pace, no? Gente che faceva i pacificatori di professione, e poi ha snocciolato i nomi che hai fatto tu orora. Perché in fondo dobbiamo stupirci per questo motivo? Il suo è un'angolazione scettica, però dice anche niente di nuovo sotto il sole. Sì, è oggettivamente vero, è anche vero, per quanto io starne male, che Carter ha fatto il pacificatore, insomma, per una ventina d'anni prima di prendere il Nobel per la pace. Certo. Questo è il cosiddetto Nobel preventivo, cioè il Nobel alle intenzioni, e si spera che, diciamo, almeno il comitato norvegese spera che la direzione impressa da Obama, la svolta alla politica estera americana, vada in quella direzione, ed è, diciamo, come una sorta di pressione collaterale, soprattutto in un momento difficile per Obama, in cui lui deve scegliere veramente la nuova strategia per l'Afghanistan, deve decidere sul rapporto di McChrystal, e in cui fra meno di 3 settimane si vota per scegliere 2 governatori di 2 stati importanti, oltre che il sindaco di New York. Da questo punto di vista io penso che lui, se avesse potuto, diciamo, evitarlo o quantomeno rimandarlo a dopo il 3 novembre, avrebbe preferito, diciamo. Questa è la mia opinione. Va bene, grazie Andrea Mancia, grazie anche a Guido Molteto che ci hanno accompagnato in questa prima parte di analisi. Poi adesso sentiremo anche le vostre alcuni vostri commenti, le vostre voci, i vostri pareri sull'argomento. Il dibattito non accenna a quietarsi. Ci torniamo tra poco. Adesso un attimo di riflessione, no? Gospel. Buongiorno America. Everybody knows that the Academy Award is is just in the bag for, it's a popularity contest. Got it. Everybody knows that. Il Nobel è un popularity contest, è poco più di un reality show, insomma, è un sondaggio di popolarità, sostiene Glenn Beck, che in questo momento è il più cattivo di tutti, ve lo citiamo spesso, perché fa molto rumore, anche lui, molta opinione nell'America di oggi, lavora per Fox News, ha avuto l'onore di una copertina dai grandi settimanali, da Time, non più tardi di un mese, qualche settimana fa, insomma, e anche lui, naturalmente. naturalmente è pronto a spalare polvere, se non fango, su questo Nobel a Barack Obama. Lui dice a ben altri americani eventualmente andrebbe dato il Nobel, e nella fattispecie cita i sostenitori del contenimento fiscale, quelli che adesso i conservatori che vanno sotto l'etichetta di Tea Party Goers, e quando ci avvicineremo ad appuntamenti elettorali come quelli a cui accennava poco fa Andrea Mancia, di questi Tea Party Goers ne sentirete parlare ancora. E, insomma, poi ci sono i grandi giornali che prendono posizione sull'argomento. Il New York Times scrive oggi che sarebbe stata una sciocchezza, una cosa ridicola, che Barack Obama si fosse assoggettato alla proposta che è arrivata da una certa America repubblicana di rinunciare, di rifiutare il premio in segno di umiltà, no? Di dire no, non ho fatto abbastanza, non me lo merito. Il New York Times dice: se il premio riflettesse le opinioni politiche di un gruppo di eurocrati norvegesi di sinistra, come è stato detto da alcuni critici, non importerebbe se Obama l'avesse vinto o meno, ma ovviamente rappresenta molto di più, è universalmente riconosciuto come un sigillo di approvazione della comunità internazionale. E il Washington Post è invece su posizioni molto più scettiche riguardo a questo premio, e osserva come, bene o male, una robusta parte della critica, probabilmente la maggioranza, accuserebbe Barack Obama a un certo punto di ciurlare un po' nel manico, no? Di alimentare un culto globale della personalità. Il Nobel serve ad alimentare questa impressione e non aiuta politicamente Obama. In sostanza, quello che Obama fa fuori dai confini nazionali può essere pericoloso poi per il suo destino politico, che naturalmente viene deciso all'interno dei confini americani. Oh, sulla pagina Facebook vi abbiamo chiesto di partecipare al dibattito, l'avete fatto numerosi, leggo alcuni dei pareri espressi da fedeli, entusiasti, ascoltatori. Umberto scrive: Santo, noi chiedevamo se questo fatto dell'Obama santo subito, insomma, fosse come dire, un filone ormai incontenibile, e Umberto risponde: santo se se ne va fuori dai pieni senza fare troppi casini, in questo caso sarebbe santo subito se non parlasse, non scrivesse e non sorridesse per i prossimi 3 anni. Riccardo dice: a me sembra regni una schizofrenia assoluta tra chi ha simili atteggiamenti e tutti quelli che in casa, in America, cominciano a essere delusi dall'atteggiamento più che prudente di Obama nell'agire su taluni temi. Secondo lui c'è, potrebbe essere un effetto tutte chiacchiere e distintivo. Paolo scrive: l'atteggiamento così mitizzante della elite culturale europea verso Obama, considerato messia della politica mondiale, si scontra contro la realtà di fatto che Obama è il presidente degli Stati Uniti, non del resto del mondo. Giuseppe dice: ricordiamo come venne accolto Clinton come il guru della terza via, riflesso pavloviano della sinistra mondiale. Chiunque non sia repubblicano viene immediatamente assurto a emblema. Anche Federico non la pensa in accordo con il comitato norvegese. Mi pare che Mr. Obama stia prendendo le distanze da se stesso, da quel se stesso piacione, pacifista, ecologista, hip hop and funky, che andava benissimo per la campagna elettorale, meno per il mondo reale. Barbara invece è a favore, si fa leggere e ascoltare da tutti, forse ha risorse energetiche che altri se le sognano, e non è un effetto mediatico, non è un effetto di santificazione. E Giampaolo dice: il premio in denaro legato al Nobel lo investe in missili da tirare in Pakistan. Beh, questo è un po' cattivo. Hanno dato il Nobel a un George W. Bush con più parlantina, con la fissa della speranza, più bello e abbronzato, e ci risiamo, che di fatto segue la dottrina Cheney, né più né meno del nemico di Michael Moore. E infine ancora Alberto che scrive: bisogna precisare, qui non si tratta di santo subito, di santo prima, insomma. Se i calcoli di Andrea Mancia sulla distanza tra la nomination e l'insediamento di Obama sono corretti, effettivamente, diciamo che ha fatto molto in fretta. E infine Dragos scrive: se c'è il Nobel per Obama, allora un Oscar anche per Silvio. che però almeno una copertina su Newsweek anche lui l'ha collezionata questa settimana, anche se credo che ne avrebbe fatto volentieri a meno. Il presidente degli Stati Uniti avrebbe invece fatto a meno delle critiche che gli sono piovute addosso dopo la sua presa di posizione nei confronti della grande marcia omosessuale in favore dei diritti omosessuali che domenica ha avuto luogo a Washington. Tonight somewhere in America a young person, let's say a young man, will struggle to fall asleep, wrestling alone with a secret he's held as long as he can remember. E questa è la frase più ad effetto che ha pronunciato durante il suo discorso. Ha detto: stanotte in qualche posto dell'America un giovane uomo certamente sta faticando a trovare il sonno, sta lottando da solo con un segreto che tiene dentro di sé da così tanto tempo che non riesce neppure a ricordarselo. Quindi la questione della legittimazione della propria condizione, del proprio orientamento sessuale, al di là di quelli che possono essere i confini etici, comportamentali e la regola dettata, scritta o non scritta, da una nazione. Barack Obama ha provato a prendere posizione in termini molto alti, molto in un certo senso teorici sull'argomento, e gli è tornata indietro una protesta invece molto diretta da parte soprattutto degli opinionisti che contano all'interno della comunità omosessuale e anche più in genere. Ad esempio sul magazine Time è uscito un articolo di assoluta dura critica nei confronti di Obama, intitolato Tutte chiacchiere e nessuna azione, in cui si accusa il presidente di dire in questo caso agli omosessuali: sono con voi, però purtroppo non posso fare granché per voi. In un certo senso arrangiatevi. Poi stanno uscendo fuori delle prese di posizione, delle decisioni che riguardano ad esempio la condizione dei militari americani in relazione al problema dell'orientamento sessuale, che forse potranno somigliare un po' di più ad azioni e un po' meno a discorsi. Invece l'azione che non possiamo compiere oggi, ma compiremo domani, perché qui c'è un altro dibattito uguale. Facciamo sentire solo i primi 20 secondi per ambientare il dibattito. This is it. Perché il 2009 ci avrà portato un Obama presidente, ma si è preso un Michael Jackson re del pop, e poi arrivano i pezzi postumi, e in questo caso il mondo, e soprattutto il mondo della comunicazione, show business, cultura e spettacolo, ci litiga un po' sopra, e qui i pareri sono contrapposti quasi quanto su Obama, e domani ve ne renderemo conto. Oggi non abbiamo fatto in tempo perché ci siamo concentrati su quest'altra piccola guerra culturale che per fortuna è combattuta solo a colpi, no, di tasti del computer. Del resto questo è il mandato di Buongiorno America: interessarsi, raccontare, scoprire, esplorare e poi rendervi conto di che cosa parlano, di che cosa discutono gli americani quando si stanno svegliando, no? Leggono i giornali, guardano la televisione. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia Valerio Rocchetti a Roma, Fabio Cantadori a Milano. La mail è buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook si chiama Redazione Jefferson 3 perché non siamo capaci di cambiare il nome. La replica va 10 minuti dopo mezzanotte, la diretta dopo 1:30 qui da Radio 24. State tutti bene.